Ieri che avevamo un'assemblea sindacale, perché visto che sono scaduti i termini, che era il 20 che è scaduto il termine che l'abbiamo fatto e l'accordo era entro il 20. Loro qua non sono usciti, a Little Pizza i padroni, il presidente della cooperativa, non sono usciti alla nostra assemblea e non hanno voluto neanche partecipare. Allora abbiamo fatto, da quell'ora lì abbiamo iniziato a fare il nostro sciopero e è continuato anche oggi. Oggi hanno usato solo la forza, hanno visto che noi siamo in pochi rispetto agli altri giorni e loro sono più di noi, hanno usato dei manganelli, hanno usato a spingere la gente, ci hanno messo tipo in un angolo giusto per far uscire, entrare dai camion, che loro vanno a base dai camion che hanno bisogno, vanno subito a chiamare, c'è uno dei responsabili del Little Pizza lì dentro e vanno a base alla precedenza, quindi quella che sarebbe utile per entrare per primo. E noi siamo stati qua fino a c'è un'ora fa, hanno arrestato una nostra collega e l'hanno presa col suo marito proprio in questura e noi l'abbiamo seguita e abbiamo chiesto alla nostra collega perché non sta facendo delle cose che non può, sta chiedendo solo loro il suo diritto. Noi abbiamo chiesto il nostro diritto, loro l'accordo era entro il 20 che torniamo proprio al nostro posto di lavoro, invece ci hanno fatto tornare, va bene, il 14 prima del 20, solo che non al nostro posto di lavoro, ci hanno messo a pulire, cioè in punizione, ci hanno messo a pulire, hanno messo noi tutti quanti a pulire sul tetto che è alto 20 metri, senza protezione, senza dei cinture, senza niente, senza sicurezza, e ci hanno messo anche a pulire il vetro dove c'è la frontiera dell'Ital Pizza, dove c'è davanti lì all'Ital Pizza, ci hanno fatto pulire quel vetro lì senza scale, senza niente, le hanno dato solo dei strasci con le maniche allungabili e hanno fatto usare, cioè pulire anche, scusate, della merda che non è stata mai pulita da anni che lavoro qua e non ho visto mai nessuno che pulisce lì. Ci hanno messo noi tutta la settimana dal 14 fino a ieri lunedì che siamo stati solo a pulire e nessuno, hanno provato, le ragazze hanno detto di no, di non pulire i cessi, abbiamo rifiutato di pulire i cessi, loro hanno detto che mandano la lettera di richiamo, giusto perché noi abbiamo rifiutato di pulire, scusate, i cessi. E loro adesso l'accordo che abbiamo fatto, loro non l'hanno rispettato. Noi abbiamo rispettato, noi fino al 20 abbiamo fatto tutto quello che hanno chiesto, abbiamo fatto tutto quello che loro hanno chiesto di pulire, dare di là, di qua, abbiamo fatto tutto. Abbiamo rispettato noi l'accordo, perché un accordo va mantenuto, noi l'abbiamo rispettato, loro non l'hanno rispettato. E adesso noi siamo qua davanti al cancello, loro continuano a usare sempre la forza contro di noi e continuano a difendere i padroni non vogliono uscire, noi abbiamo chiesto un tavolo, magari che parliamo con i padroni di Little Pizza, con i padroni delle due cooperative, magari troviamo qualche soluzione, una trattativa, cosa volete fare? Noi tutti hanno dato ragione a noi, adesso siamo andati anche a Roma, noi al ministero, tutti quanti, l'ispettorato di lavoro, tutti quanti hanno dato la ragione a noi, perché voi non volete capire, non lo so, loro non vogliono fare un tavolo, noi stiamo chiedendo questo, loro non hanno accettato. E adesso io ti chiederei un po' di ricordare, anche perché appunto dicevi vi hanno messo a fare le pulizie, ricorderei un attimo una cosa delle vicende precedenti, cioè nel senso al tavolo che si è tenuto dopo un lungo periodo di scioperi, appunto si era ottenuto che voi vi venisse fatto il giusto contratto, perché voi lavoravate da anni nella farcitura delle pizze, quindi... Quando siamo stati in prefettura, io ho detto con il signor che rappresenta Little Pizza, io ho detto lasciamo stare le cooperative, io voglio quando, cioè non lo so la data perché hanno detto entro il 20, non oltre, però io ho detto quando torniamo al nostro posto di lavoro, io vorrei tornare dove ero prima. Lui mi ha risposto, certo che tornate al vostro posto. Io ho detto guarda, non è che magari mi metti a pulire giusto per dirmi che la cooperativa sta applicando il contratto di molti servizi di pulizia. Lui ha detto assolutamente no, tornate al vostro posto di lavoro. Invece no, non è stato quello. Quindi a questo punto siete tornate in sciopero e ti chiederei a questo punto di tornare al nostro posto di lavoro applicando il contratto di alimentariste. Adesso noi chiediamo un tavolo per parlare di queste cose qua, per parlare anche il perché, dove c'è una motivazione, c'è una giustificazione in cui mi dici perché non hai rispettato l'accordo, che noi l'abbiamo rispettato fino al 20, noi abbiamo fatto tutto quello che hanno chiesto. E invece tornando proprio ai fatti delle ultime ore, insomma, voi intanto comunque manterrete lo sciopero? Sì, noi finché troviamo una soluzione, finché prendiamo la risposta da loro, perché noi abbiamo chiesto una risposta, noi abbiamo chiesto se loro mandano un'email, se loro accettano di fare un tavolo trattativo che parliamo, loro non hanno accettato, loro fino adesso nessuno è uscito a dire dai venite qua che ci mettiamo a parlare, dai che ci mettiamo l'appunto sulle i, nessuno da dentro, tutti sono lì dentro, anzi hanno fatto uscire i nostri colleghi per dire che loro sono contro di noi, quelli che lavorano dentro, l'hanno detto andate a dirle che voi siete contro di loro. Insomma, fondamentalmente stanno continuando ad applicare quelle stesse dinamiche di sfruttamento che voi avevate denunciato già. Non è cambiato niente, anzi è peggiorato, non è cambiato niente.